Dopo quel giorno, durante le mie passeggiate dalla parte di Guermantes, mi parve ancor più doloroso di prima non essere portato per le lettere e dover rinunciare per sempre ad essere uno scrittore famoso. Il rimpianto che provavo quando me ne stavo solo un po' in disparte a sognare mi faceva così soffrire che per liberarsene la mia mente di sua iniziativa, per una sorta di inibizione davanti al dolore, cessava del tutto di pensare ai versi, ai romanzi, a un avvenire poetico sul quale la mia mancanza di talento mi vietava di contare. Allora, assolutamente al di fuori e indipendentemente da tutte quelle preoccupazioni letterarie, all'improvviso un tetto, un riflesso del sole su una pietra, l'odore di un sentiero mi inducevano a sostare per un piacere particolare che mi procuravano. E anche perché sembravano nascondere, al di là di quello che vedevo, qualcosa che mi invitavano a cogliere e che io, malgrado i miei sforzi, non riuscivo a scoprire. Poiché sentivo che quel qualcosa era dentro di loro, restavo là immobile a guardare, a respirare, a cercare di andare col pensiero al di là dell'immagine e dell'odore. E se dovevo raggiungere il nonno, proseguire il cammino, cercavo di ritrovarli chiudendo gli occhi. Mi sforzavo di ricordare esattamente la linea del tetto, la sfumatura della pietra, che senza riuscire a comprenderne la ragione, mi erano parse ricolme, pronte a dischiudersi, a svelarmi ciò di cui non erano che l'involucro. Certo, non erano impressioni di quel genere che potevano ridarmi la speranza perduta di essere un giorno scrittore e poeta, perché erano sempre legate a un oggetto specifico, privo di valore intellettuale e non ricollegabile ad alcuna verità astratta. Ma almeno mi davano un piacere immotivato, l'illusione di una sorta di fecondità, e così mi distraevo dalla noia, dal senso di impotenza che avevo provato ogni volta che avevo cercato un argomento filosofico per una grande opera letteraria. Ma il dovere di coscienza che mi veniva imposto da quelle impressioni di forma, di profumo o di colore, cioè di tentare di cogliere quello che dietro di esse si celava, era così arduo che non tardavo a inventarmi pretesti che mi permettessero di sottrarmi a quegli sforzi e di risparmiarmi quella fatica. Per fortuna i miei mi chiamavano. Sentivo di non avere per il momento la tranquillità necessaria per proseguire utilmente la mia ricerca e che era meglio non pensarci più finché non fossi rientrato e non affaticarmi in anticipo senza risultato. Allora non mi occupavo più di quella cosa sconosciuta che si avvolgeva di una forma o di un profumo. Ero assolutamente tranquillo perché la riportavo a casa, protetta dal rivestimento di immagini sotto le quali l'avrei ritrovata viva, come i pesci che il giorno in cui mi consentivano di andare a pesca riportavo a casa nel cestino ricoperti di uno strato d'erba che ne serbava la freschezza. Una volta a casa pensavo ad altro e così mi si accumulavano nella mente come nella mia stanza i fiori che avevo raccolto nelle mie passeggiate o gli oggetti che mi avevano regalato, una pietra su cui giocava un riflesso, un tetto, il suono di una campana, un odore di foglie, tante immagini diverse sotto le quali da molto tempo è morta la realtà intuita che per insufficienza di volontà non sono riuscito a scoprire. Una volta, tuttavia, in cui la nostra passeggiata si era prolungata molto più del solito ed eravamo stati ben felici di incontrare a metà strada sulla via del ritorno mentre si avvicinava il crepuscolo il dottor Perspier che passava in carrozza a briglia sciolta, il quale, avendoci riconosciuto, ci aveva fatto salire con lui, ebbi un'impressione di quel genere e non l'abbandonai senza prima averla un poco approfondita. Mi avevano fatto salire accanto al cocchiere. Si viaggiava come il vento perché il dottore, prima di rientrare a Combray, doveva fermarsi a Martainville-le-Sec per visitare un malato. L'avremmo atteso in carrozza davanti alla porta dell'abitazione. A una svolta della strada, all'improvviso, provai quel piacere speciale che non somigliava ad alcun altro. Nel vedere i due campanili di Martainville sui quali batteva il sole al tramonto e che sembravano mutare di posto con il movimento della carrozza e le curve della strada, e poi quello di Vievic, separato dagli altri due da una collina e da un avvallamento, e situato in lontananza su un pianoro più elevato, ma che però sembrava vicinissimo a entrambi. constatando, notando la forma delle loro guglie, la fluttuazione delle loro linee, il sole sulle loro superfici, sentivo di non potere attingere al fondo della mia impressione, che c'era qualcosa dietro quella fluttuazione, dietro quella luminosità, qualcosa che essi sembravano contenere e nascondere al tempo stesso. I campanelli apparivano così lontani, e noi avevamo l'impressione di avvicinarci così poco, che rimasi stupefatto quando, pochi istanti dopo, ci fermammo davanti alla chiesa di Martinville. Non sapevo la ragione del piacere provato scorgendoli all'orizzonte, e cercare di scoprirla mi si presentava come un obbligo penoso. Desideravo mettere in serbo nella mia testa quelle linee oscillanti nel sole e non pensarci più per il momento. Ed è probabile che se l'avessi fatto, i due campanili sarebbero andati a raggiungere per sempre tutti quegli alberi, tetti, profumi e suoni che avevo distinto dagli altri per il piacere oscuro che mi avevano procurato e che non avevo mai approfondito. Scesi a chiacchierare con i miei in attesa del dottore. Poi ripartimmo, ripresi il mio posto a cassetta, mi voltai per vedere ancora i campanili che poco dopo scorsi un'ultima volta a una curva della strada. Il cocchiere, che pareva poco disposto a chiacchierare, rispose a malapena alle mie frasi, per cui, in mancanza d'altra compagnia, fui costretto a ripiegare su me stesso e a tentare di ricordare i miei campanili. Ben presto le loro linee e le loro superfici illuminate dal sole, quasi fossero state una specie di scorza, si lacerarono. Un po' di quello che in loro si nascondeva mi apparve. Ebbi un pensiero, un istante prima per me inesistente, che si tradusse in parole nella mia mente, e il piacere che poco prima avevo provato alla loro vista ne fu talmente accresciuto che, preso da una specie di ebbrezza, non riuscii più a pensare ad altro. In quel momento eravamo già lontani da Martinville e, volgendomi indietro, li vidi di nuovo, tutti neri questa volta, perché il sole era già tramontato. A tratti le curve della strada me li nascondevano, poi si mostrarono un'ultima volta e infine non li vidi più. Senza dirmi che quanto era nascosto dietro i campanili di Martinville doveva essere qualcosa di analogo a una bella frase, poiché era stato sotto forma di parole capaci di procurarmi piacere che la cosa m'era apparsa, chiesi al dottore carta e matita e, malgrado i sobbalzi della carrozza, per dar sollievo alla mia coscienza e obbedire al mio entusiasmo, scrissi il breve pezzo che segue, ritrovato più tardi e al quale non ho apportato che lievi ritocchi. Soli, elevandosi dal livello della pianura e come sperduti in aperta campagna, salivano verso il cielo i due campanili di Martinville. Ben presto ne vedemmo tre. Venendo a porsi di fronte a loro con ardita giravolta, li aveva raggiunti un campanile ritardatario, quello di Vievic. I minuti passavano, andavamo veloci, e tuttavia i tre campanili erano sempre là, in lontananza, davanti a noi, come tre uccelli posati sulla pianura, immobili e distinti nel sole. Poi il campanile di Vievic si appartò, prese le distanze, e i campanili di Martinville restarono soli, rischiarati dalla luce del tramonto, che anche a quella distanza vedevo giocare e sorridere sui loro tetti scoscesi. Ci avevamo messo tanto ad avvicinarci a loro, e pensavo al tempo che ancora ci sarebbe voluto per raggiungerli, quando, dopo una svolta, la carrozza ci depositò improvvisamente ai loro piedi. Erano comparsi davanti a noi così bruscamente che avemmo appena il tempo di fermarci per non finire contro il portale. Poi proseguimmo il nostro percorso. Avevamo già lasciato Martinville da un po' di tempo e il paese, dopo averci accompagnati per qualche minuto, era sparito, ma, rimasti soli all'orizzonte a guardarci fuggire, i suoi campanili e quello di Vievic agitavano ancora in segno di addio le loro cime illuminate dal sole. A tratti uno si dileguava perché gli altri due potessero vederci un istante ancora, ma poi la strada cambiò direzione. Essi virarono nella luce come tre perni d'oro e scomparvero ai miei occhi. Ma poco dopo, quando eravamo già nei pressi di Combray e il sole era ormai tramontato, li vidi un'ultima volta da molto lontano. Erano soltanto tre fiori dipinti sul cielo al di sopra della bassa linea dei campi. Mi facevano pensare anche alle tre fanciulle di una leggenda, abbandonate in un luogo solitario quando già scendeva l'oscurità. Mentre ci allontanavamo al galoppo, li vidi cercare timidamente il cammino e dopo qualche goffo tremolio dei loro nobili profili, stringersi l'uno contro l'altro, scivolare l'uno dietro l'altro, fondersi nel cielo ancora rosa in una sola forma nera incantevole e rassegnata, e poi dileguarsi nella notte. Non ho più ripensato a quella pagina, ma in quel momento, nell'angolo del sedile dove il cocchiere era solito sistemare in una cesta il pollame comprato al mercato di Martinville, quando ebbi finito di scriverla, provai una tale felicità. Sentivo che mi aveva così perfettamente liberato da quei campanili e da quello che si celava dietro di loro, che come fosse stato io stesso una gallina e avessi appena fatto l'uovo, mi misi a cantare a squarciagola. Per tutto il giorno, durante quelle passeggiate, avevo potuto sognare del piacere che sarebbe stato per me essere amico della duchessa di Guermantes. Pescare le trote, andare in barca sulla Vivonne e, avido di felicità, non chiedere altro alla vita in quei momenti che di comporsi sempre di una serie di pomeriggi felici. Ma quando sulla via del ritorno avvistavo a sinistra una fattoria abbastanza distante da altre due, invece molto vicine tra loro, e a partire dalla quale per entrare in Combray non c'era che da imboccare un viale di querce fiancheggiato su un lato da una distesa di prati, ciascuno appartenente a un piccolo podere, e dove dei meli piantati a intervalli regolari, quando erano illuminati dal sole al tramonto, proiettavano il disegno giapponese delle loro ombre, all'improvviso il mio cuore si metteva a battere. Sapevo che entro una mezz'ora saremmo rientrati, e che come al solito nei giorni in cui andavamo dalla parte di Guermantes e in cui la cena veniva servita più tardi, mi avrebbero mandato subito a letto, appena finita la minestra. Così mia madre, trattenuta a tavola come quando c'erano ospiti, non sarebbe salita a darmi la buonanotte. La zona di tristezza in cui ero appena entrato era distinta dalla zona in cui solo un attimo prima mi ero slanciato con gioia, come in certi cieli dove una striscia rosa è separata quasi con una riga da una striscia verde o da una striscia nera. Si vede un uccello volare nel rosa, sta per raggiungerne il limite, tocca quasi il nero, ecco, vi è entrato. I desideri in cui poco prima ero immerso, di andare a Guermantes, di viaggiare, di essere felice, ora mi erano talmente estranei che la loro realizzazione non mi avrebbe procurato alcun piacere. Come avrei dato tutto questo per poter piangere tutta la notte fra le braccia della mamma? Rabbrividivo, non staccavo gli occhi angosciati dal viso della mamma che quella sera non sarebbe apparsa nella stanza dove mi vedevo già con il pensiero. Avrei voluto morire. E quella condizione sarebbe durata fino all'indomani, quando i raggi del mattino, come il giardiniere, avrebbero appoggiato la loro scala al muro rivestito di nasturzi che s'arrampicavano fino alla mia finestra, e io sarei saltato giù dal letto per scendere in fretta in giardino, senza più ricordarmi che la sera avrebbe recato sempre l'ora di lasciare la mamma. E così, dalla parte di Guermantes, ho imparato a distinguere quegli stati che si succedono in me in certi periodi e giungono addirittura a spartirsi la giornata, l'uno tornando a scacciare l'altro con la puntualità della febbre, contigui ma estranei l'uno all'altro, privi della possibilità di comunicare tra loro, al punto che non riesco più a capire e nemmeno a rappresentarmi, quando mi trovo nell'uno, ciò che ho desiderato o temuto o fatto nell'altro. Così la parte di Meseglise e la parte di Guermantes restano per me legate ai tanti piccoli avvenimenti di quella che fra tutte le diverse vite parallele che conduciamo è la più piena di peripezie, la più ricca di episodi, cioè la vita intellettuale. Senza dubbio questa vita progredisce dentro di noi insensibilmente e le verità che ai nostri occhi ne hanno cambiato il senso e l'aspetto, che ci hanno aperto nuove strade, da molto tempo ci preparavamo a scoprirle, ma non lo sapevamo, e non datano per noi che dal giorno, dal minuto in cui ci sono divenute visibili. I fiori che allora giocavano sull'erba L'acqua che scorreva al sole, tutto il paesaggio che circondava la loro apparizione, continua ad accompagnare il ricordo col suo volto incosciente o distratto. E certo, mentre erano a lungo contemplati da quell'umile passante, da quel fanciullo che sognava, come accade a un re contemplato da un memorialista confuso tra la folla, mai quell'angolo di natura, quel lembo di giardino, avrebbero potuto pensare che grazie a lui sarebbero stati chiamati a sopravvivere nelle loro particolarità più effimere. Eppure quel profumo di biancospini che aleggia lungo la siepe, dove presto le rose di macchia lo sostituiranno, un rumore di passi senza eco sulla ghiaia di un viale, una bolla formata dall'acqua del fiume contro una pianta acquatica e che subito scoppia. La mia esaltazione li ha portati con sé ed è riuscita a far loro attraversare tanti anni successivi, mentre tutt'intorno i sentieri si sono cancellati e sono morti coloro che li percorsero e anche il ricordo di chi li percorse. A volte quel frammento di paesaggio, trasportato intatto fino ad oggi, si distacca così isolato da tutto che fluttua incerto nel mio pensiero come una delo fiorita, senza che io sappia dire da che paese, da che tempo o forse semplicemente da che sogno provenga. Ma è soprattutto come a dei giacimenti profondi del mio sottosuolo mentale, come ai terreni resistenti sui quali mi appoggio ancora, che devo pensare alla parte di Méséglise e alla parte di Guermantes. È perché credevo alle cose, agli esseri, mentre percorrevo quei sentieri, che le cose e gli esseri che mi hanno fatto conoscere sono i soli che io prenda ancora sul serio e mi diano ancora qualche gioia, o perché la fede che crea sia taciuta in me, o perché la realtà non si forma che nella memoria, i fiori che qualcuno mi mostra oggi per la prima volta non mi sembrano fiori veri. La parte di Méséglise con i suoi lilà, i suoi biancospini, i suoi fiordalisi, i suoi papaveri, i suoi meli, la parte di Guermantes con il suo fiume popolato di girini, le sue ninfee, i suoi botton d'oro, hanno formato per me il volto dei paesi dove mi piacerebbe vivere, dove esigo che si possa andare a pesca, fare gite in barca, vedere rovine di fortificazioni gotiche e trovare in mezzo ai campi di grano una chiesa monumentale, rustica e dorata come un pagliaio, come era Saint-André des Champs, e i fiordalisi, i biancospini, i meli, che quando viaggio mi capita di incontrare ancora nei campi, poiché situati alla stessa profondità a livello del mio passato, sono immediatamente in comunicazione col mio cuore. E tuttavia, dato che c'è qualcosa di individuale nei luoghi, quando mi assale il desiderio di rivedere la parte di Guermantes, non riusciresti a soddisfarlo portandomi sulla riva di un fiume dove ci fossero ninfee altrettanto belle, ancora più belle che nella Vivonne, così come, rientrando a casa la sera, nell'ora in cui si risvegliava in me quell'angoscia che più tardi emigra nell'amore e può divenirne per sempre l'inseparabile compagna, non avrei desiderato che venisse a darmi la buonanotte una mamma più bella e più intelligente della mia. No, quello di cui avevo bisogno per potermi addormentare felice, con quella pace senza turbamento che nessun amante mi ha potuto dare più tardi, poiché si dubita di loro nel momento stesso in cui si crede in loro, e non si possiede mai il loro cuore, come io ricevevo in un bacio quello di mia madre tutto intero, senza la riserva d'un pensiero inespresso, senza il residuo di un'intenzione che non fosse per me. Quello di cui avevo bisogno era che fosse lei, che lei chinasse su di me quel viso dove c'era sotto l'occhio qualcosa a quanto pare un difetto che io amavo ugualmente come tutto il resto. Allo stesso modo, quello che voglio rivedere è la parte di Guermantes che ho conosciuta, con la fattoria un po' discosta dalle altre che seguono strette l'una all'altra, all'ingresso del viale di Querce. Sono quei prati dove, quando il sole li rende specchianti come uno stagno, si disegnano le foglie dei meli, e quel paesaggio che a volte la notte nei miei sogni mi afferra nella sua individualità con una potenza quasi fantastica che non riesco più a ritrovare al risveglio. Certo, avendo congiunto dentro di me per sempre, indissolubilmente, impressioni diverse solo per avermele fatte provare nello stesso tempo, la parte di Méséglise o la parte di Guermantes mi hanno esposto per l'avvenire a non poche delusioni e anche a molti errori. Infatti spesso ho voluto rivedere una persona semplicemente perché, senza rendermene conto, mi ricordava una siepe di biancospini e sono stato indotto a credere e a far credere a un ritorno di affetto da un semplice desiderio di viaggio. Ma anche così, e pur restando presenti in quelle tra le mie impressioni di oggi cui si possono collegare, offrono loro un fondamento, una profondità, una dimensione in più che le altre non hanno. Aggiungono ad esse un incanto, un significato che vale solo per me. Quando, nelle sere d'estate, il cielo armonioso ringhia come una bestia selvaggia e tutti si adombrano a causa del temporale, devo alla parte di Meseglise il privilegio di starmene solo in estasi a respirare, attraverso il rumore della pioggia che cade, il profumo di invisibili e persistenti lillà. Così spesso rimanevo fino al mattino a pensare ai tempi di Combray, alle mie tristi sere senza sonno, anche ai tanti giorni la cui immagine mi era stata più di recente restituita dal sapore che a Combray si sarebbe detto il profumo di una tazza di tè, e per associazione di ricordi a quanto avevo saputo molti anni dopo aver lasciato quella piccola città a proposito di un amore che Swann aveva avuto prima della mia nascita, con quella precisione di particolari più facile da ottenere a volte sulla vita di persone morte da secoli che non su quella dei nostri migliori amici, e che sembra impossibile, come sembrava impossibile parlare da una città all'altra, finché si ignora il trucco grazie al quale quell'impossibilità è stata aggirata. Tutti quei ricordi, aggiunti gli uni agli altri, formavano ormai un'unica massa, ma non senza che si potesse distinguere tra loro, tra i più antichi e quelli più recenti, scaturiti da un profumo, e poi quelli che erano soltanto i ricordi di un'altra persona da cui li avevo appresi, se non delle fessure o delle faglie vere e proprie, almeno quelle venature, quelle screziature di colore che in certe rocce, in certi marmi, rivelano differenze d'origine, di età, di formazione. Certo, quando si avvicinava il mattino, da tempo ormai si era dissipata la breve incertezza del mio risveglio. Sapevo in quale camera mi trovavo effettivamente. L'avevo ricostruita intorno a me nell'oscurità e, orientandomi con la sola memoria o aiutandomi come indicazione con un debole chiarore intravisto ai piedi del quale situavo le tende della finestra, l'avevo ricostruita tutta intera e arredata come un architetto e un tappezziere che conservino le aperture originarie delle porte e delle finestre. Avevo sistemato gli specchi e rimesso al suo posto abituale il comò. Ma appena il giorno, e non il riflesso di un'ultima brace su un'asta di rame che avevo scambiato per il giorno, tracciava nell'oscurità come col gesso la prima riga bianca e rettificatrice, la finestra con le sue tende lasciava il vano della porta dove l'avevo collocata per errore, mentre per farle spazio lo scrittoio che la mia memoria aveva erroneamente installato al suo posto fuggiva in gran fretta, spingendo avanti a sé il caminetto e spostando il muro divisorio del corridoio. Dove, ancora un attimo prima si apriva la stanza da bagno, ora regnava un cortiletto, e la casa che avevo ricostruito nelle tenebre era andata a raggiungere le case intraviste nel turbine del risveglio, messa in fuga da quel pallido segno tracciato sopra le tende dal dito levato del giorno. Il narratore audiolibri vi ha presentato Alla ricerca del tempo perduto, dalla parte di Swann, parte prima, Combray, di Marcel Proust. Lettura di Alberto Rossatti. Traduzione di Alberto Rossatti e Rose Emma Perret. Illustrazione di copertina di Marlene McLaughlin. Swann's Way, Watercolor, collezione privata, San Francisco, California. Copyright audio Il narratore audiolibri, Zovencedo 2021. Salvo autorizzazione, sono vietati la duplicazione e l'utilizzo di quest'opera per la pubblica esecuzione, la radiodiffusione e web radio. Ogni trasgressione sarà perseguita ai termini di legge.